affacciati alla finestra, bella mia. Nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata, affacciati alla finestra, bella mia. Nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna. Serenata, serenata. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite, della quale leggeremo un profilo biografico con naturalmente la produzione letteraria, eccetera, prima di dare a lei la parola. Maria Elisa Borinsala nasce a Treviso, dove tuttora risiede. Opera nel campo artistico sin dagli anni 60. Dopo un lungo silenzio, nell'88 riprende le sue attività, allargando le sue esperienze in vari campi: pittura, scultura, illustrazione e decorazione su porcellana. Partecipa a varie mostre collettive ed è invitata a presentare le sue opere in diverse esposizioni personali con esito positivo. Fa parte di varie associazioni culturali nella sua città ed è inserita nei quaderni di aggiornamento di Art Italia. Nel 95 ritorna agli studi frequentando il liceo artistico statale di Treviso. Da allora, sollecitata dai suoi insegnanti, riprende a scrivere fiabe, racconti, saggi e poesie. Nel mese di gennaio del 2000 esce il suo primo libro di poesie haiku, Diamoci del tu, delle edizioni del Leone, curato dal poeta Paolo Ruffilli, che ha avuto vari riconoscimenti. Nel mese di settembre 2001 esce, curato da Piazza Editore, il libro di racconti autobiografico Il muro dietro la porta, ottenendo dai media critiche più che positive e successo di pubblico alla sua presentazione a Treviso presso Cade Carraresi in concomitanza alla mostra di Claude Monet. Il muro dietro la porta ha dato e continua a dare molte e tangibili soddisfazioni alla scrittrice. La più importante è stata la scelta del suo libro da parte dei docenti di una scuola media di Quinto di Treviso, adottato come testo di lettura per le classi terze. Inoltre è stato anche presentato il suo indicato libro alle Case Piavone dal dottor Cason per la memoria che ha portato sugli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine di dicembre del 2002 esce un piccolo libro di fiabe, Le storie del Bosco Bruno, edizione I fiori di campo, illustrato dall'autrice, due fiabe che hanno vinto vari concorsi. Alla fine del 2004 esce in libreria una raccolta di poesie, Io, Arpa e Olia, presentato ufficialmente a gennaio 2005 presso l'ex chiesa di Santa Croce, l'università, e con successo di pubblico e di critica. A novembre 2006 esce una raccolta antologica, Suite da piccola musica notturna, edizione Carta e Penna, Torino. Nel 2009 esce il suo primo romanzo, Maria voleva le ali, edizioni Piazza, Treviso, un libro che sta dando molte soddisfazioni, critiche più che positive. Dopo una lunga pausa causata da problemi di salute, riprende in mano la penna e nasce nel 2012 un piccolo libro di poesie frutto di un premio, I dolci inganni. A novembre del 2013 esce Camilla e la luna piena. In questi ultimi anni partecipa con soddisfazione a molti concorsi, portando a casa molti premi. Da non dimenticare il primo premio per le fiabe ai Gronchi 2000, il primo premio assoluto Pittura Lizza d'Oro 2000, il primo premio Silloge Inedita al Formina d'Oro 2000, il primo premio per l'inedito 2001 Cesare Pavese Grinzane Cavour, il primo premio per un saggio al Gronchi 2002, il primo premio per l'edito 2003 Fenalca Salerno, Storie di donne, con il libro Il muro dietro la porta, e il primo premio Maribruna Toni, il primo premio per un saggio al premio Baccheronzius 2004, il primo premio per la narrativa inedita Città di Fondi 2004, il primo premio narrativa inedita Emilio De Marchi 2005, il primo premio Poesia Intercircoli Treviso 2005, il primo premio per Poesia Edita Falesia Maribruna Toni 2006, riceve l'Istonium d'Oro 2006 per meriti letterari a Vasto e il primo premio Poesia Inedita Intercircoli Treviso 2007, il primo premio assoluto Poesia Edita Edizioni Creativa. Nel 2004 la provincia di Treviso ha presentato il libro Il muro dietro la porta al Museo Etnografico come testimonianza di un mondo scomparso. Recensioni più che positive da quotidiani, settimanali, riviste divulgative e da riviste letterarie. La sua più grande aspirazione è di lasciare a chi verrà un ricordo, perché non vuole essere dimenticata. Beh, ecco. Giusto questo, eh? Naturalmente. Certo. Certo. Manca un premio, perché ci tengo a quel primo premio, quello di Susegana, premio che fanno durante la mostra dei libri in cantina. Libri in cantina, sì, sì. Anni fa ho vinto il primo premio con una poesia che dopo leggerò. Sì. Benissimo. Il Col Fosco. Eh sì, sono venuta anch'io quella volta lì. Sì. Ecco, allora parliamo un pochino di tutte le tue opere. Io ho letto per prima cosa gli Haiku, che mi sono piaciuti tantissimo. Ecco, da allora sono diventata una tua fan. Gli Haiku, non so se tu li abbia qua, io non ce li hai qua. No. Puoi spiegare tu gli Haiku, sono piccoli. Sono delle poesie che non sono di origine italiana, no, sono di origine giapponese. Ma gli Haiku hanno, penso, un migliaio di anni, però sono sempre più o meno sulla stessa falsa riga. Sono delle piccolissime poesie che hanno un inizio normale, diciamo, però una fine che sconvolge tutto. Sono molto belli, effettivamente. Sono brevissime, perché sono 5, 7 e 5. Quando l'hai presentato? Nel 2000 questo? Nel 2000, sì. L'ho dedicato a una mia vicina di casa. Non pensavo di pubblicare quel libro, è stata un'esigenza, perché è morta Caterina, sì, una giovane donna, sì, ha lasciato due bambini, e mi sembrava di perderla, che tutti si dimenticassero poi di lei. Io volevo fermarla su questa terra, e ho dedicato questo libro a lei. Che è molto molto bello, sì, effettivamente. Difatti, Diamoci del tuo titolo, sì. E suo marito, il suo compagno, se ne è accorto, perché io e lei non ci siamo mai date del tu. Ah no? No, ah. Ho dato il... Non succede da volte. È la prima poesia, poi, che non è un haiku, ma sono tre haiku e un codino, che hanno, si chiamano in un'altra maniera in Giappone, renga o roba del genere. Io non sono molto addentro ai nomi, diciamo, ma però anche la poesia è dedicata a lei, alla sua scomparsa. E dentro ci sono delle poesie dedicate ai figli. Il suo compagno se n'è accorto. Vedi un po'. Sì. Comunque, sì. Via via, vero Antonio, ha scritto Io, Arpa e Olli, ha scritto Il muro dietro la porta, che sono racconti poi, no? Il muro dietro la porta è stata una richiesta da parte delle figlie. Volevano che io scrivessi i miei ricordi, perché loro della guerra non sapevano proprio nulla, e della nostra famiglia nemmeno, perché c'ero io e basta, c'ero io e mia madre. E ogni tanto io parlavo del passato, e loro erano curiose da ragazzine. E quando sono tornate dall'America da un viaggio, mi hanno portato dei quaderni della fattoria, quelli rilegati di tela, quelli che si usavano un tempo. Esatto. Ma in America li usano tuttora. Tuttora. E questi quadernoni grossi, che sono come dei libri, e lì mi sono messa a scrivere questi racconti in maniera disordinata. Un giorno è venuto un amico di mia figlia, si è messo a leggerli e ha detto: ma perché non li pubblica, sono così belli? E così mi è venuta l'idea, tutto lì. Però l'ho scritti apposta per le figlie, per lasciare loro una testimonianza, un ricordo. Ed è stato anche un bene. Io consiglio a tutti di scrivere, specialmente del passato, specialmente a chi ha avuto problemi di timidezza, di colpe, di perché scrivendo ci si scarica l'anima. Ci si libera l'anima, è una cosa terapeutica. È una cosa veramente terapeutica. Sì, io non riesco a mettere su carta i miei sentimenti, non ci riesco proprio. Beh, puoi metterli anche con la voce. Sì, forse ancora peggio. È questione di timidezza, di una certa, come si dice, un certo riserbo, un certo... Comunque mai dire mai. Ma anch'io ero chiusa sotto questo punto di vista, ma a quel punto ho dovuto anche cedere. Esatto, beh certo, se hai voluto fare questo lavoro. E anche poi non è simpatico scrivere del dopoguerra, perché si viveva veramente male. Non era facile, era la vita. Miseria nera. C'erano problemi? Io no, perché avevano una trattoria da mangiare, ne avevo, ma c'era della gente che moriva di fame, veramente. Di fame, sì. Esatto. Poi c'era la guerra è stata tremenda, perché ci ha distrutto. Noi poi siamo cresciuti, ma non siamo più stati sereni come dovevano essere i bambini. Esatto. Io ricordo che a scuola, quando disegnavo cimiteri, ecco, per dirne una. Sono problemi proprio. Hai scritto una bellissima poesia sui cimiteri orientali. Ah, sì. Me la ricordo. Ah. Tu dovevi leggere una poesia, mi pare, prima che passiamo. Volete che legga una poesia? Sì, esattamente. Leggo quella che ha vinto il premio Col Fosco. Benissimo. Sì. Ora. Alte mura e occhi spettrali si incendiano nella notte. Un nastro d'acciaio ha ferito la terra e si insinua nel bosco di robinie. Hanno tagliato il nostro albero, spaccando i ricordi. Non più uccelli dai carillon sonori e arpe d'aria. Arrivano solo monotoni stridenti suoni di motori. Salgono dai mille cammini fumi nerastri fino a coprire il nostro sole. Il vento, senza aspettare l'autunno, porta nel suo gioco stanche foglie staccate da alberi feriti. Le polle sorgive non ambiscono più i riarsi prati. Allora, cespugli di rose, al suono di calabroni ronzanti cantavano nel sole. Il vento lasciava scie biancastre nel cielo così azzurro che faceva male al cuore, e ad ogni soffio accarezzava vesti e malleoli di bimbi in fiore, sotto la siepe di forsizie che porgeva rami d'oro a Febo, raccoglievamo le prime viole. Bella, molto bella, molto sì. Bella. Ne hai una, per esempio, tratta dalla silose Arpa Eolia? No, di Arpa Eolia non ne ho. Allora, adesso comunque ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo da te. Allora, la canzone che ci ascoltiamo come seconda, sempre di Sanremo, L'Uomo delle Stelle, che è del 2006, cantata da Ron. E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ti ruberò anche all'eternità. Che bella sei, così precisa dentro ai sogni miei. Che luce fai quando ti guardo e lo sai, il vento ti parlerà di quest'uomo che vive per te. Si resterò vita per stenderò tutte le stelle. Ci riuscirò, perché sono l'uomo delle stelle. E bella sei, unica luce dentro agli occhi miei. Mi guarderai come non mi hai guardato mai. Il tempo ci sfiorerà e saremo per sempre io e te. Eccoci di nuovo in studio e adesso, se non ti dispiace, Elisa, tocchiamo un momentino un altro tuo modo di scrivere, cioè non in poesia ma in prosa. Allora, siccome io ho seguito proprio passo passo tutti e due i tuoi romanzi, Maria voleva le ali, che abbiamo letto e straletto, e mi ricordo che addirittura me lo sognavo di notte, tanto che mi piaceva, solo che non, all'ultimo non ti decidevi a scrivere l'ultimo capitolo, ma solo a forza di dai, dai, dai e dai è arrivato anche l'ultimo capitolo. Io comunque ti avevo detto che sarebbe stato bene la continuazione di questo libro. È difficile perché non è finita bene, è finito male il libro, ma il peggio viene dopo. Ci sono state delle cose tremende nella mia famiglia, per esempio nel 23 mia nonna, che aveva fatto su un cumulo di soldi perché lei era una formica, il banco di sconto è fallita e lei non ha visto più un soldo. Il secondo marito poi aveva un mucchio di amanti, ne combinava di tutti i colori, non è stata una bella vita per mia nonna. E poi c'era il periodo fascista, è difficile raccontare del periodo fascista. Io trovo, o sei molto addentro, o altrimenti è meglio lasciar stare, perché sono, è ancora troppo vicino il periodo fascista per me, secondo per me decantare tutti i sentimenti. Mia madre diceva sempre che non aveva fatto cose brutte, anzi, ma è stato, poi si è rovinato con la guerra e si è rovinato purtroppo con la guerra. Comunque il tuo libro in sostanza parla del bombardamento di Treviso, parla della storia di Treviso prima della guerra, della prima guerra, prima mondiale. Guerra mondiale, quindi si svolge, è bellissimo perché ti descrive tutte le strade, com'era Treviso, come, ma veramente bello. Come mai ti sei ispirata così, ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Ma perché mia nonna, c'erano le zie che prendevano in giro mia nonna, dicevano sempre lei quando era giovane lavava i panni per i parenti dell'albergo. Insomma, io poi sempre stata curiosa e ho sempre chiesto molto, perché non ho mai visto nemmeno i posti, fra l'altro, che racconto. Ecco. Tipo Salgari, come Salgari, no? Sì, è uguale. Io proprio quando mi metto a scrivere invento anche le situazioni, invento le case, invento tutto. Le vedo. Sì, sì. Le vedo. Questo è importante. Sì, sì. Parti da come si chiama? Non Scozzè, come si chiama il paese? Fieso d'Artico. E lo finisci a Treviso poi. Sì, sì, ecco, si finisce appunto a Treviso. Ma ce ne sono tante cose, insomma, c'è il bombardamento di Treviso, ci sono quando arrivano a Treviso. Beh, è meglio che non raccontiamo perché lasciamo che... Bisogna lasciare un po' di suspense. Sì, comunque penso che valga la pena leggerlo senz'altro. Tra l'altro io parlo di Treviso sulla memoria di mia nonna, dei sarti, della sarta che c'era, una famosissima sarta a Treviso. Parlo di tutti quei personaggi, sono tutti reali, tutti veri, tutti veri. Io mi sono permessa di parlarne perché sono morti tutti. E poi ho parlato bene. Sì, questo è importante. È importante questo. Quando si può, chiaramente. Comunque a me è rimasto proprio impresso, ti dico che addirittura la notte me lo sognavo questo libro, perché proprio ti porta indietro nel, ti, ma è proprio veramente veramente bello, un libro che consigliamo a tutti, vero Antonio? Naturalmente. Ecco. E poi questo è stato pubblicato nel 2008 o nel 2009? Alla fine del 2008, ecco. Ma è uscito nel 2009. Nel 2009. E dopo come ti è venuto così l'ispirazione per scrivere? Perché prima avevi scritto un racconto intitolato Camilla e la luna piena. Io ho scritto un racconto. Questo racconto è piaciuto a tutti, ovviamente, però tutti mi hanno criticato perché finiva male. Finiva male, che lei moriva. E una mia amica di Pordenone mi fa: ma perché non provi a portarlo avanti qui e lì? E così una mattina mi sono sognata di portarlo avanti. Penso che è stato proprio un colpo di genio, diciamo, perché io non mi sognavo minimamente né di niente, sapevo solo del racconto e basta. Sono partita in quarta e io un mese l'ho scritto. E ogni capitolo che scrivevo, noi lo telefonavo. Così, e noi lo commentavamo. Poi, una volta finito il libro, l'abbiamo riletto tutto, ogni giorno un capitolo, due, tre, sì, dipende. E dopo finalmente, ma questo qui è stato fatto presto, non è che abbiamo dovuto spingerla. Ho aspettato un po' di tempo perché volevo vedere se mandandolo a qualche concorso, perché fanno i concorsi anche per l'inedito romanzo. E su due concorsi io, su uno sono stata selezionata, ma mi hanno chiesto tre concorsi, uno sono stata selezionata e lì non ho, e su altri due, un concorso di una casa editrice di Roma, tutte e due di Roma, sono arrivata terza. Però sono arrivata terza, su uno no, mi hanno fatto una relazione bellissima che in parte l'ho usata per quello che c'è scritto lì, e l'altro invece mi pubblicavano il libro a Roma. Ah. Ma io non sto molto fisicamente, non posso, diciamo, andare a Roma avanti e indietro, è faticoso. Io poi ho la mia età e qui non si scherza, però ovviamente quando scrivo io... Non hai più la tua età? No, non ho più la mia età. Infatti. No, assolutamente. Torno a essere la ragazza. Abbiamo sempre qualcosa di fanciullesco dentro, vero? Ah, si rimane, indubbiamente. Aveva ragione il Pascoli, ma scherziamo. È fanciullino? Sì. Adesso, noi... quando è questo periodo qua del Pascoli, mi viene sempre in mente l'aquilone. E poi, allora, questa nostra Camilla e la luna piena è stata presentata quando, Elisa? È stato presentato il 7 dicembre qui a Spazio Paraggi. Ho fatto gli inviti, però ho telefonato a tutte le persone che conoscevo su per giù, sì, e sono venuti tutti. Quasi tutti, anche perché era una brutta giornata, era il primo giorno che bloccavano le automobili. Beh, esatto. Che bloccavano in città le auto. Difatti io ho dovuto farmi fare un permesso in comune per essere portata in macchina fino a lì. Cosa dice Antonio prima di leggere qualcosa? Ascoltiamo un'altra canzone? Possiamo eventualmente ascoltare un'altra canzone? Ecco, allora Luca Barbarossa ci canterà Portami a ballare. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua, ma io ti sento sempre accanto anche quando non ci sono. Io ti porto ancora dentro anche adesso che sono un uomo, e vorrei, vorrei saperti più felice. Sì, vorrei, vorrei dirti molte più cose. Ma sai, questa vita mi fa tremare, sono sempre i sentimenti i primi a dover pagare. Ciao mamma ciao, domani vado via, ma se ti senti troppo sola allora ti porto via. Saperti più felice, sì vorrei, vorrei dirti molte più cose. Portami a ballare. Eccoci di nuovo in studio. Allora Elisa, adesso così affronteremo un pochino anche con qualche lettura non tanto lunga il tuo romanzo ultimo, Camilla e la luna piena. Così raccontaci un po' cos'è che ti ha, sì, a parte il racconto che avevi scritto, ma del libro qual è la cosa che ti piace, che ti ha più soddisfatto? Ma il personaggio di Nino, perché io ho sempre guardato con tanta, con curiosità, diciamo, la vita che fanno questi uomini che abbandonano il mondo normale, il mondo attuale, e vanno a vivere così, senza luce, senza niente, senza, e si procacciano quello che possono. Questa è una cosa incredibile, perché loro sono quelli che sentono, assomigliano un pochino alle civiltà fredde, sì. Che le civiltà fredde, se fossero solo loro, la terra sarebbe perfetta, perché non c'erano padroni, tutti sono padroni. Il vecchio era solo un conduttore del gruppo, ma solo per cercare di mangiare non avevano il tempo di diventare, insomma, padroni di quello che poi... Poi sono residenti in terra, siamo residenti in terra, ce ne andiamo, non portiamo mica via niente. Assolutamente niente. È quello che mi dà fastidio. Eppure ci attacchiamo tanto a quello che abbiamo qua, generalmente, anche perché altrimenti, insomma, bisogna pur vivere e avere qualche appiglio, perché altrimenti... Ma è la politica del grande consumo, questo l'altro. E d'altra parte è logico, ormai l'elettronica è così avanzata che spazio per l'uomo non ce n'è più. Poco, e quello è il discorso. È che inquina anche l'atmosfera, vero Antonio? Purtroppo questo è siamo arrivati a livelli proprio impensabili. Allora, cosa dici? Leggiamo qualche pezzetto della, sì, non tanto, perché vogliamo che la gente lo compri, certo, e lo legga, certo. Vero? Pertanto, per incuriosire, da Camilla della Luna Piena, Ferie d'agosto. Camilla, seduta sulla spalletta del ponte, gambe ciondoloni e con in grembo una manciata di foglie, guardava l'acqua impetuosa che scendeva a valle. Ogni tanto lasciava cadere una foglia che, attratta da un piccolo vortice, danzava. Le ricordava il Maelstrom, un racconto di Poe, nel quale una barca veniva ingoiata da un enorme imbuto marino, e lei sentiva una certa attrazione pensando di essere al posto della foglia che girava a spirale fino a sparire nel nulla. Dal bosco alle sue spalle arrivava solo un lieve stormire, il vento notturno, giungendo dal mare vicino, e l'umidità avevano dato tregua alle foglie, portando respiro e aprendole a nuova vita. La luna immensa si perdeva nelle matasse sfilacciate delle nuvole, giocando a nascondino. Solo lampi lontani, portatori di una nuova giornata calda. La donna aveva aspettato a lungo che i suoi andassero a letto, poi era uscita nel silenzio. Proprio un silenzio assoluto? Ma che? Non proprio l'urlo dei silenzi, ma quei lievi scricchiolii della casa, il sonoro tic-tac della sveglia della mamma e il ronfare del papà. Il tutto creava un ricamo di vibrazioni che uscivano dalle finestre aperte, andando a confondersi con il canto dei grilli. Anche il cane aveva ritrovato, in un posticino fresco sotto il portico, la voglia di dormire, allungatosi per sentire refrigerio, e metteva solo qualche debole guaito. Sicuramente stava sognando corse giovanili. Ora il povero Argo, figlio del buon Tobia, che dormiva il sonno del giusto ai piedi della quercia, ormai vecchio e malandato, non riusciva nemmeno a seguire la donna. Solo il pelo ogni tanto fremeva, forse un morso della solita pulce assassina che Camilla non era riuscita a stanare. Il cagnone l'aveva vista scendere le scale, si era fatto sentire battendo la coda, attendendo invano una carezza. Poi, deluso, aveva chiuso gli occhi ed era ritornato ai suoi sogni. Il padre di Argo, il dolcissimo Tobia, era stato lasciato 20 anni addietro in custodia ai genitori di Camilla, dai Vitale, loro vicini di casa, che per lavoro erano partiti per il Brasile, portandosi con loro il recalcitrante figlio Franco. Quest'ultimo lasciò un vuoto incolmabile nel cuore di Camilla e un senso di smarrimento nel mondo del cucciolo. Tobia, dopo pochi giorni dei guaiti lamentosi, si era affezionato alla famiglia Lori al completo, diventando a tutti gli effetti il cane ombra della ragazza. Ora il figlio Argo, a causa del terribile caldo estivo, dormiva fuori. Il suo posto, da quando era morto il padre, era invece lo scendiletto della donna. Camilla e Franco, in quella lontana notte estiva, si erano promessi per la vita, e su quel ponte ad orso di mulo che collegava il bosco al paese ebbero le loro ultime disperate ore d'amore. La ragazza non li avrebbe mai dimenticate. Per anni ci fu una fitta corrispondenza fra i due. Poi, senza una ragione, Franco non scrisse più e le lettere inviate tornarono al mittente. I genitori della ragazza cercarono in tutti i modi di farglielo dimenticare, anche perché a nulla erano valse le loro ricerche nelle ambasciate e consolati dei vari possibili stati sudamericani per avere notizie. Poi, col tempo, lei riprese gli studi, intraprendendo nella città vicina un lavoro interessante che le riempì la vita. Ma quando cadeva il plenilunio, lei tornava, da qualsiasi posto si trovasse, al ponte e al suo sogno. Come allora, anche in questa notte di luna piena, lei era lì ad aspettare. Ricorreva l'anniversario di quel distacco lontano. D'improvviso nel cielo apparvero scie e fontane luminose accompagnate da fragorosi botti. Già, nei paesi rivieraschi si festeggiava il Ferragosto. Camilla ebbe un sobbalzo, impaurita alzò gli occhi al cielo e, forse in quell'attimo, perse l'equilibrio e precipitò, senza rendersene conto, nel fiume, in quel punto molto profondo. Anche se avesse avuto la forza di gridare, nessuno l'avrebbe sentita. La camicia da notte, molto ampia e vaporosa, si allargò e lentamente, col suo carico, si mosse con la corrente come un grande fiore di loto. Antonio, il padre di Camilla, si svegliò che albeggiava. Si alzò e tirò a sé gli scuri e piano piano, per non disturbare la moglie, uscì accostando la porta. Il vecchio aveva problemi con la vescica e dopo aver penato per votarla, tirò lo sciacquone, si guardò allo specchio. Si fece uno sberleffo e, non riconoscendosi, cercò di abbassare quel buffo ciuffo grigio. Di colpo si ricordò della posta arrivata il giorno prima. La memoria incominciava a dargli dei grossi problemi. Ciabattando, andò in cucina, inforcando per strada gli occhiali, e cercò la busta indirizzata alla figlia. La cosa gli parve strana, perché era tanto tempo che Camilla si faceva mandare la posta al suo domicilio abituale. Lo trovò. Dall'aspetto e dai francobolli capì che quella missiva veniva da lontano. Il mittente? Un certo Franco. Antonio si chiese se fosse di quel bel tipo che la figlia continuava ad aspettare. Ecco, questo è il primo capitolo. E così finisce il racconto. Ecco, finiva così il racconto? Sì, finiva così. Ah, ma non che lei era morta? Ovviamente era. Noi non lo sappiamo, diciamo, che fine avesse fatto. Ho capito. Quindi così finisce il racconto. Cioè, in sostanza, il primo capitolo è uguale al racconto. Sì, non ho toccato una virgola. Forse l'ho un po' sistemato, ma niente di particolare. È rimasto quello che era. Vabbè, adesso leggiamo il primo e il secondo capitolo, così per darvi un'idea, che è un capitolo un po' dialogato. La scomparsa. Maria, Maria, alzati! Antonio chiamò la moglie a gran voce. Arrivò il cane con le ciabattine di Camilla in bocca. Antonio lo guardò e, dandogli un'affettuosa pacca in testa, gli si chiese se la povera bestia stesse perdendo i lumi, come capitava spesso a lui, e fece una smorfia pensando al mal comune. Uno scricchiolio arrivò dallo scalino malfermo. La donna in camicia da notte scese brontolando. Maria Allori era una donnina dall'aria sciupata. Mille rughe parlavano per lei, ma aveva un sorriso che dava il buongiorno anche al tempo più nero. Entrò in cucina. Accidenti a te! Il caldo e le zanzare mi hanno fatto passare una nottataccia, continuò mettendo la caffettiera già caricata sulla fiamma. E ora che vuoi? A proposito, stanotte hai sentito i fuochi? Riprese, dopo aver cercato di spostare il cane disteso che le impediva di muoversi. Che ci fa Argo con le pianelle? Senza aspettare risposta, si diresse verso la scala, chiamando a gran voce: Camilla, alzati! Fra poco devi scendere in città. Non cercare le ciabatte, Argo le ha già portate giù. E rivolgendosi al marito: Senti un po' tu. Ma da Antonio non vennero risposte. Si era già dimenticato il motivo del suo berciare e quatto si era infilato in bagno. Arrivava solo il lieve ronzio del rasoio elettrico. E ora, si disse Maria, a chi chiedo il perché di tanto rumore? Il marito stava diventando giorno per giorno un problema più grosso di quel che si credeva. Parlava poco e con questa scusa nessuno si rendeva conto del suo decadimento mentale. I disturbi della prostata, roba da poco conto, li aveva mezzo risolti. Aveva già l'appuntamento con il chirurgo. Gli anni c'erano, e tanti, e gli acciacchi non stanno a guardare. Maria ritornò col pensiero al tempo della nascita di Camilla. I due si erano sposati per amore e col tempo avevano perso le speranze di aver figli, ma con una sorpresa che aveva avuto dell'incredibile, invece della menopausa arrivò una bimba bellissima che allietò e rinsaldò l'unione. Ma per la ragazza, più che genitori, furono nonni. Maria non voleva ammettere la malattia del marito che subdola si era insinuata nel loro mondo e involontariamente la donna infilava la testa sottoterra come gli struzzi. Sconsolata, spense la fiamma della caffettiera che finì di borbottare emanando un intenso aroma. Mise le tazze e la zuccheriera sul tavolo, prese dal frigorifero la scodella colma di burro giallo fatto con la piccola zangola il giorno prima e il vaso della marmellata di arance amare, resto di un recente viaggio della figlia a Londra. A quel punto non le rimase che sedersi ed aspettarli. Si specchiò sul vetro della finestra. Al mattino si vedeva brutta e cercando di non ridere si fece le linguacce. A lei piaceva fare la prima colazione in compagnia. Dal piano superiore non giunse neppure lo scricchiolio di un tarlo. D'abitudine, sentendo il profumo del caffè che invadeva la casa, Camilla saltava a pie pari gli scalini e, mentre l'aspettava, Maria addocchiò la busta sulla credenza, pensando che fosse del marito. Si alzò, incuriosita, la prese in mano. Cercò gli occhiali. Al nome del mittente ebbe un colpo al cuore. «Oh mio Dio, il nostro Franchino! Quanti anni sono passati!» bisbigliò. Si alzò di scatto e con la lettera in pugno fece le scale al piccolo galoppo, tenendosi ben stretta al corrimano. Argo, che aveva ancora in bocca le ciabatte, ansante la seguì. Aprì d'impeto la porta. La sorpresa le pesava ancora e, nella penombra, intuì immediatamente cosa mancava nella stanza. Entrò, le ante socchiuse e il copriletto senza una piega le fecero capire che almeno quella notte nessuno aveva toccato il letto. Già, mancava Camilla. Forse quella benedetta figliola, insofferente all'afa e per il gran caldo, si è rifugiata nel sottoportico? Si chiese a mezza voce. Sì, esclamò, sicuramente era lì, dove dorme il cane nelle notti estive. Argo guai cercando la sua padrona. Scese di corsa ai gradini cercando di non cadere, con al seguito il cane. Il vecchio bestione biondo, se avesse avuto modo di farsi capire, avrebbe raccontato che dopo la sveglia, nelle prime luci dell'alba, aveva salito come d'abitudine le scale e col muso aveva scostato la porta semichiusa della camera di Camilla. La stanza era vuota, era sceso a cercare la sua padrona, arrivato sul ponte aveva fiutato e di lei purtroppo solo l'odore. L'aveva cercata, poi, stanco, aveva addentato le pianelle che si trovavano a ridosso della spalletta del ponte e le aveva portate a casa. Maria la cercò affannosamente, prima nei luoghi possibili, poi in quelli più improbabili. Le poche cose della figlia erano tutte al loro posto. Il cellulare sul ripiano del telefono, la borsa appoggiata sul sedile vicino. Dopo un'affrettata perquisizione capì che non mancava nulla. Frugò anche nello stanzino delle scope e, sapendo che dal marito non poteva avere aiuto, fece un ultimo tentativo, chiamando l'amica e collaboratrice della figlia giù in città. Le rispose Caterina, la giovane praticante. La chiamavano ancora giovane per abitudine. Era stata compagna di studi della figlia, poi, per motivi familiari, aveva lasciato l'università. Quando Camilla subentrò in uno studio commercialista, si ricordò di lei. Conoscendone le capacità, la volle con sé e l'amicizia nata sui banchi di scuola si consolidò. Nella loro diversità non ebbero mai un contrasto. Caterina, bionda con gli occhi verde acqua, piena di grilli per la testa, grandi passioni e fughe, brevi convivenze che finivano inevitabilmente in grandi tragedie o in noie mortali. Camilla, mora, pelle perlacea, occhi profondi neri, donna rimasta fedele al primo e unico amore, ma sempre disposta a raccogliere i rientri e le confidenze dell'amica. Tutte e due gambe lunghe e sotto la quarantina potevano ancora permettersi un abbigliamento da ragazze, ma soprattutto trendy. Quando uscivano dall'ufficio per la pausa pranzo, camminando sotto i portici verso il solito ristorante, attiravano ancora gli sguardi dei passanti e non solo maschili. Ma ora, dove fosse finita l'amica, ne sapeva tanto quanto la signora Allori. La telefonata aveva sconvolto Caterina, ora era veramente preoccupata, perché per lei era impensabile una qualsiasi fuga, conosceva troppo bene Camilla. Chiuse la casa e lasciò un biglietto ben in vista a Enzo, suo attuale compagno. Poi, con poche falcate, raggiunse la sua scassatissima utilitaria senza impianto di aria condizionata. Insediata al posto di guida, si accese la prima sigaretta del mattino, tossì, si diede la tossica della malora e avviò il motore. «Sto arrivando!» urlò sul cellulare ancora acceso, rispondendo a Maria e al mondo. «E ora che fare?» si chiese angosciata la vecchia signora, mettendo giù il telefono. Stringeva fra le mani la lettera ancora chiusa. Bene, bello sto capitolo. Allora, prima di proseguire, ci ascoltiamo un'altra canzone, sempre di Sanremo passato. Questa è del 1970, è cantata da Mina ed è intitolata Insieme. Eccoci di nuovo in studio. Elisa, ti ricordi che quando hai finito il libro, una mattina mi hai fatto sentire un pezzettino che chiudeva in sostanza il libro, che a me è piaciuto moltissimo. E chissà perché ci tengo a leggerlo, perché proprio mi ha fatto tornare indietro nel tempo, mi ha dato delle emozioni che non lo so nemmeno io perché. Ecco, questa è la chiusura di, spiegalo Elisa, cos'è la chiusura del libro? Ma non è una chiusura, è una chiusura, è una mia chiusura, perché il libro si chiude, vabbè. Si chiude prima, sì. Però è il pensiero di uno scrittore, questo, che in fondo lo scrittore inventa, gioca con i personaggi, fa il burattinaio. Io mi sono sentita il burattinaio della situazione, perché a girare tutti io un mese mi sono divertita a girare tutti questi personaggi, divertendomi, proprio vivendo con loro. Però a questo punto mi è dispiaciuto anche mettere la parola fine. A me è piaciuto moltissimo questo pezzo. E allora scrissi quello perché mi è dispiaciuto mettere la parola fine. E come tutte le belle storie fantastiche, finisce in gloria. È sera. Il burattinaio, seduto a cavallo dell'asse terrestre, sta mettendo nelle varie scatole i suoi amati personaggi. Se guardate bene, li potete intravedere, sapendo già dove andarli a cercare. E ora, dopo aver riordinato tutto, chiude il sipario e, spegnendo le luci, augura a tutti buonanotte. Ti piace, Antonio? Molto, molto. Vero? Molto evocativa. Che è molto originale. Penso che tutti gli scrittori di fantasia, perché quando si parla qui si parla di fantasia, siano così. Perché quando si scrive con la passione di scrivere, poi ti svegli di notte all'improvviso e devi alzarti. Esprimi il concetto. E devi scendere, accendere il computer, perché devi andare avanti. Quella è un'urgenza che non ho oggi, effettivamente. Sì. Ce la facciamo leggere Il tempo degli aquiloni? Al tempo? Ma dai, proviamo. Al tempo degli aquiloni, il rossore del cielo lascia strie nerastre nella prima sera, che mi porta verso un breve abbandono. Torno ad accucciarmi tra le braccia della poltrona che collò i giorni dolenti di una donna chiusa nel suo mondo. Già, madre mia, cerco l'odore amato nelle pieghe del tempo patrigno, essenza sbiadita. Nel perdermi del dolore mai sopito, sciolgo le mura che rinserrano la mia anima. Tornano con le morte stagioni i nostri giochi costruiti dal nulla, e il rimpianto di aver disperso al tempo degli aquiloni nel vento un discorso mai finito. Il silenzio invade il mio mondo, sento un lieve calore e nel torpore che m'attanaglia torno in lei. Bella. Ecco, Antonio. Il fatto di queste evocazioni, queste cose, si torna sempre a un qualcosa di comune, diciamo. Sembra di immedesimarsi, sembra di aver vissuto le vicende che vengono narrate, che vengono raccontate. E che cosa nasce questa evocazione, questa interpretazione, questa immedesimazione, diciamo? Perché siamo bravi. questa è una risposta non convenzionale, diciamo. La risposta, diciamo la verità, sincera, spontanea. Sì, perché occorre naturalmente tirar fuori qualcosa dal profondo di se stessi per riuscire a renderlo universale, mi pare, no? Forse sì, questo, sì, ecco, sì, questo è sì. Perché la vicenda umana chiaramente ripercorre molti rivoli, ma poi viene ricondotta a un unico fiume. Un unico fiume. Questa è una cosa importante. Ecco, lo scrittore, come dicevo, anche recentemente c'è questa tendenza alla biblioterapia. È qualcosa che si è scoperto, che i libri sono terapeutici, e determinate vicende, determinati racconti o anche saggi o cose di questo tipo possono indurre una guarigione anche più accelerata rispetto a determinate malattie, rispetto a determinati stati di disagio mentale anche. Quindi direi che lo scrittore è come un medico dell'anima, insomma, se vogliamo. Beh, io mi sono curata la depressione con la lettura. Ecco qua. Sì. E anche con la scrittura. Esattamente, e quindi sono espressioni, chiaramente leggere e scrivere sono espressioni come delle due facce della medaglia, naturalmente. Prima leggere, però. Sì, prima leggere. Prima leggere, molto. È esattamente. Bello leggere. Leggere, noi abbiamo letto con piacere la questione e non ci resta altro da fare che ringraziare Elisa per il suo apporto, diciamo, per il suo piacevole. La prossima volta io avrò anche una sorpresa, perché credo che il 9 marzo ci sia qualche cosa in vista. Saggia decisione, allora noi attendiamo a questo. Allora, grazie Elisa. O a Venezia o a Verona, non lo so ancora. Bene. Ringraziamo sentitamente. E addio piacendo, alla prossima volta. Alla prossima, e come sempre vi dico ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.